del buon dì. Dungaio rosignol, la voce mi svegliò. Che dite voi? Mi piace come canti. Oh, signor Fri, quei fiori son per me. Per voi li ho colti, ed oltre i fiori ho pronta una sorpresa. Una primizia certo. Le ciliegie. Ciliegie, e son di già mature. Quando la porpora vivo il colore, sol dolci e tenere, di primavera somiglia un fiore fragrante roseo. Son pronta a coglierne un mazzolino, devo gettarvele. Gettare subito, bella uccellino, le saprò prendere. Fresche scintillano di brina ancora, son tutte roride, ma è da quell'albero che sull'aurora bisbiglia il passero. Sì, da quell'albero. Ciò che gli dice non sai comprendere. Io lo so intendere, che gli è felice nel canto mormora. Floridi ai suoi vicini lieti l'aspettano, agili scherzano dei biancospini tra i fiori candidi. Come ne interpreti bene il linguaggio? Fuor di qui dove trovarla, tu sei bella. lascia fare.